Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Una volta che hai conosciuto il volo, camminerai sulla terra con gli occhi rivolti sempre in alto, perché là sei stato e là agogni a tornare. Sono le toccanti parole di Leonardo da Vinci, il più grande inventore di tutti i tempi, che descrive così lo stato d'animo di chi ha provato la magica ebbrezza del volo. La nostra storia di oggi vi porta in alto, molto in alto, fra le nuvole di un cielo che allarga gli orizzonti e supera ogni limite. A Destini Incrociati vi racconteremo la vicenda di un uomo che ha legato il suo nome a un'impresa storica, superando mille difficoltà senza mai scoraggiarsi e credendo fermamente in se stesso e nelle proprie capacità. Un uomo che ha volato sulle ali della sua passione. Il volo è desiderio di libertà, è il sogno di tutta l'umanità dagli albori della sua comparsa sulla Terra. Un sogno che ha alimentato le speranze di migliaia di pionieri del volo in tutte le latitudini e in ogni epoca. Tra di loro un pilota che ha contribuito a cambiare il mondo, riuscendo a unire continenti lontani e a conquistare altezze celesti. Siamo a Parigi, nel campo di volo di Le Bourget. È il 21 maggio del 1927. 150.000 persone sono assiepate lungo la pista di atterraggio. Mai si è vista una folla simile in quel luogo. Gli occhi sono rivolti tutti all'insù, verso il cielo. Si attende qualcosa, o per meglio dire qualcuno. Un uomo che ha fatto del volo la sua ragione di vita. Nell'aeroporto Le Bourget sono tutti terribilmente eccitati. L'impresa che sta forse per compiersi è davvero impressionante. L'aereo che tutti sperano di vedere comparire lassù tra le nuvole di quel cielo parigino è partito da molto lontano, addirittura da New York. Alla sua guida un giovane uomo che in solitaria tenta di attraversare l'oceano Atlantico a bordo di un aeroplano. Un'impresa mai riuscita. Il pilota sa molto bene cosa lo aspetta se dovesse farcela. La gloria più incondizionata. Lo ricorda anche Davide Sassoli, lanciando un servizio dedicato proprio al nostro primo protagonista di oggi. Oggi migliaia di aerei volano tra America e Europa in poche ore, ma 80 anni fa la trasvolata dell'Atlantico era un'impresa eroica. Un'impresa eroica, appunto, mai compiuta fino a quel momento da nessuno, ma provata da tanti che hanno fallito. Questo lo sa bene Lone Eagle, aquila solitaria, come verrà poi ribattezzato il nostro pilota, sospeso sull'oceano. Questo uomo incredibilmente coraggioso è il primo protagonista dei Destini Incrociati di oggi. Il suo nome è Charles Augustus Lindbergh. Charles Augustus Lindbergh. Scopriremo presto chi è il nostro eroe alato e come sia giunto a tentare un'impresa così incredibile per quegli anni, ai limiti del possibile. Ma per capire bene in cosa egli si stia cimentando, lasciamolo un attimo alla guida del suo velivolo sopra i cieli di Parigi e ripercorriamo brevemente le tappe della storia del volo fino a quel momento. Le prime macchine volanti le disegna Leonardo da Vinci seguendo il mito di Icaro e copiando le ali dagli uccelli. Nei secoli successivi sono molti i tentativi di volare con i mezzi più fantasiosi, ma gli insuccessi sono all'ordine del giorno. Sarà solo più avanti, grazie a due coppie di fratelli a distanza di 100 anni gli uni dagli altri, che il volo diventerà possibile anche per l'uomo. A fine Settecento il sogno diviene realtà, quando i fratelli Montgolfier si alzano in volo sopra Parigi con un pallone aerostatico, che in loro onore fu chiamato Montgolfiera, spianando di fatto la strada a molti altri. Ma bisogna attendere l'inizio del Novecento perché un uomo domini l'aria con un velivolo a motore. La data fatidica del volo umano è il 17 dicembre 1903. I fratelli Orville e Wilbur Wright spingono in aria il Kitty Hawk. È il primo oggetto più pesante dell'aria con pilota e motore. Percorre ben 8 chilometri e arriva dopo infiniti tentativi meno fortunati. Anche se il volo resterà per molto tempo appannaggio di pochi e solo nell'epoca moderna diventerà accessibile anche alla gente comune, con i fratelli Wright, in quel fatidico mattino su una spiaggia della Carolina del Nord, inizia a trasformarsi in realtà uno dei maggiori sogni dell'uomo: volare. Volare. Oh, cantare. Felice di stare qua giù. Negli anni che seguono, con il successo dei fratelli Wright, l'aviazione compie passi da gigante. Ma bisogna contare ancora due decenni e innumerevoli tentativi falliti prima di poter parlare di trasvolata dell'Atlantico. Si deve attendere fino al 21 maggio del 1927. In quello stesso giorno, mentre la folla si accalca lungo la pista dell'aeroporto Le Bourget di Parigi e Charles Lindbergh è chissà dove, tra i cieli sopra l'oceano, con rotta verso la Francia, un uomo è comodamente seduto nel suo ufficio all'interno dell'hotel Lafayette, di cui è proprietario, nel quartiere Greenwich Village di New York. Anche se quasi 6.000 chilometri lo separano da quanto sta accadendo all'aeroporto francese, il suo cuore è con il giovane pilota americano e attende trepidante la notizia del suo atterraggio a Parigi. Intanto, nella gelida cabina di pilotaggio dello Spirit of St. Louis, e questo è il nome del monoplano con il quale Charles Lindbergh sta tentando la traversata atlantica, il giovane pilota ha paura di addormentarsi. È per questo che si è fatto sostituire l'avvolgente sedile da aviatore con una scomodissima sedia di vimini intrecciato. Mentre osserva la cartina geografica che ha portato con sé e getta un occhio alla bussola, la sua mente vola lontano, là da dove tutto questo ha avuto origine. Charles Augustus Lindbergh nasce nel 1902 a Detroit. I suoi genitori sono immigrati svedesi, piuttosto benestanti, estremamente severi. Il padre è avvocato, la madre è insegnante di chimica. Charlie dimostra fin da subito un'innata inclinazione verso la meccanica, tanto che si iscrive alla facoltà di ingegneria dell'Università del Wisconsin. Ma presto l'abbandona, è il volo la sua vera passione. Solo in alto tra i cieli si sente veramente libero. Ascoltate come descrive quel tipo di sensazione il pilota Scott McKenzie, che ore di volo ne ha accumulate parecchie nella sua lunga vita da pilota. Volare su un aereo di quegli anni, sentire l'aria sul viso è l'essenza del volo. È questo quello che significa veramente volare. Un fatto personale e intimo che ti mette in stretto contatto con gli elementi che attraversi. È di certo molto più interessante che volare in un aereo pressurizzato. È questo quello che prova il giovane Lindbergh. Quando vola, quando tutta la sua persona è avvolta dall'aria e dal silenzio, quando la solitudine è la sua sola compagna, ecco che allora e solo allora si sente veramente se stesso. È un ragazzone di 1,91 m dal carattere chiuso e scontroso, ma così determinato che prende facilmente il brevetto alla Nebraska Aircraft Training School e si arruola nell'esercito degli Stati Uniti per essere addestrato come pilota. Nel 1925 entra poi nella compagnia aerea Robertson come portalettere sulla rotta St. Louis-Chicago. Per un paio di anni quello sarà il suo lavoro, ma Charles attende la sua occasione fortunata, che si presenta un mattino inaspettatamente. Lindbergh sta leggendo un settimanale, quando per caso gli cade l'occhio su una notizia che cambierà l'intero percorso della sua vita. Un tale, il ricchissimo proprietario di una catena di alberghi del Nord America, offre $25,000, una cifra esorbitante per quei tempi, al primo uomo che riesca a volare da New York a Parigi o viceversa senza scalo. Sono già alcuni anni che il premio è in palio, ma nessuno è mai riuscito a vincerlo. Fino al punto esatto in cui si spegne. Voglio fare tutta questa strada fino al punto esatto in cui si spegne. Tutto quello che Lindbergh sogna disperatamente, tutto quello per cui si è preparato con tenacia, ha il volto di un magnate, un uomo che si è fatto dal nulla e da poverissimo è divenuto proprietario di una catena di alberghi a Parigi e in tutta l'America del Nord. Lindbergh decide all'istante che lo vuole conoscere e sente che quell'incontro cambierà la sua vita. Lui è il secondo protagonista della nostra storia e il suo nome è Raymond Ortega. Raymond Ortega. Ma chi è quest'uomo che sembra comparso dal nulla e che conquista la ribalta della notorietà mondiale grazie a una scommessa? Siamo verso la fine dell'Ottocento. Raymond Orteig è un giovane originario del sud della Francia, emigrato a New York per raggiungere suo zio. Si è data a fare lavori semplici, da prima bigliettaio di autobus, poi inserviente di ascensori in un grande albergo. È acuto, intelligente e sogna di diventare ricco e famoso. Mentre accompagna i clienti dell'albergo ai loro piani in ascensore, promette a se stesso che un giorno sarà lui a salire alle vette della notorietà e del successo. Una buona occasione gli si presenta quando riesce a entrare in società con alcuni proprietari di bar. Come può succedere solo in America in quel periodo storico, a chi sappia essere intraprendente, riesce a far decollare in pochi anni una sua attività acquistando addirittura due hotel, il Lafayette e il Brevoort, entrambi nel quartiere del Greenwich Village a New York. 1914. Scoppia la Prima Guerra Mondiale. La guerra non rappresenta per Raymond Orteig un problema, anzi, è un businessman e come tale sa trarre profitto da tutto quello che gli accade intorno. Infatti, alla fine del conflitto mondiale, è proprietario anche di una serie di alberghi a Parigi. È a questo punto che gli frulla in testa un'idea che cambierà la sua vita e lo vedrà promotore di un evento storico, entrato nella leggenda. In realtà, Orteig non ha nulla a che vedere con il mondo dell'aviazione, ma ammira molto gli eroi e gli assi volanti della guerra appena conclusasi, alcuni dei quali ha avuto occasione di conoscere nei suoi alberghi. Inoltre, è un affarista nato e compie una vera e propria azione di marketing per promuovere le sue attività, che ora sono a New York e a Parigi. Il 22 maggio del 1919 scrive una lettera al presidente dell'Aero Club of America, Augustus Post. Egregio signore, come stimolo al coraggio degli aviatori, desidero offrire, attraverso gli auspici e regolamenti dell'Aero Club of America, un premio di $25,000 al primo aviatore di uno qualsiasi dei paesi alleati che attraversi l'Atlantico in un unico volo, da Parigi a New York o da New York a Parigi, ogni altro dettaglio a vostra cura. Vostro sinceramente, Raymond Orteig. L'offerta è decisamente strabiliante. Per quegli anni $25,000 sono una cifra astronomica. La notizia ci mette ben poco a fare il giro nell'ambiente degli aviatori. Viene pubblicata il 30 maggio sul New York Times e scatena immediatamente la bagarra dei piloti di mezzo mondo. In molti tentano l'impresa. Il capitano Reed, della US Navy, con un idrovolante Curtiss NC-4. John Alcock, Arthur Brown, inglesi, con un bombardiere terrestre Vickers Vimy. Il maggiore Scott inglese, con un dirigibile R-34. L'asso francese René Paul Fonck, il cui trimotore, carico di carburante, si incendia ancor prima di partire. Nessuno riesce a portare a termine la traversata, ma l'opinione pubblica non si scompone. Sono anni nei quali si tentano imprese di ogni genere, come ricorda un film documentario dedicato a questi pionieri del volo. Negli Stati Uniti, alla fine della Prima Guerra Mondiale, ogni sorta di gente disperata accetta di rischiare la propria vita per una manciata di dollari. Charles Lindbergh sta leggendo la notizia che riguarda il premio Orteig e decide subito di tentare. Comprende all'istante che è l'occasione della sua vita, ma il tempo gioca a suo sfavore. I concorrenti sono numerosi e molto più facoltosi di lui. Quando propone la sua candidatura all'Aero Club of America e a Raymond Orteig, non è ancora nessuno nel campo dell'aviazione e nessuno è disposto a dare un centesimo di credito a quel giovane e sconosciuto pilota che tutti danno già per spacciato. The world held its breath and then... These pages herald one of the most incredible feats in the annals of human endeavor. In un divertente passaggio del film The Spirit of St. Louis del 1957, diretto da Billy Wilder, dove Lindbergh è interpretato magistralmente da James Stewart, egli stesso pilota e generale di brigata dell'esercito degli Stati Uniti d'America, il protagonista risponde con una battuta a chi gli chiede credenziali sulla riuscita della sua impresa. Quando ero un bambino ed ero il più basso della mia classe, mi misi in testa che sarei diventato 1,90 e ce l'ho fatta. Infatti la sua determinazione viene premiata. Alla Ryan Aeronautical di San Diego sono disposti a costruirgli un aereo esattamente come lo vuole lui per intraprendere quell'impresa. Inizia così per Charles un periodo frenetico. Passa intere notti insieme all'ingegnere Donald Hall a smontare e rimontare il suo velivolo. È sempre lì, al freddo di quell'hangar che gli hanno messo a disposizione, con le mani e il volto sporchi di grasso di motore. Ma non sente la stanchezza, non conosce la paura e la sua concentrazione è alle stelle. La preoccupazione maggiore per lui è avere abbastanza carburante. Per questo, anche se osteggiato dai suoi tecnici, pretende un enorme serbatoio collegato tra la cabina e il motore, anche se così facendo si preclude la visione frontale e può vedere l'orizzonte solo attraverso un gioco di specchi laterali. Sono le 7.52 del 20 maggio 1927. Charles Lindbergh prende posto sulla scomoda sedia di vimini che si è fatto installare per evitare colpi di sonno all'interno della cabina di pilotaggio dello Spirit of St. Louis. Il tempo è brutto, la pista del Roosevelt Field è una pozzanghera unica e lui fa fatica a sollevare l'aereo da terra. Ma poi le ruote del carrello si staccano dal suolo e ha così inizio la traversata atlantica. Charles ha con sé 3 panini al prosciutto cotto, 3 barrette di cioccolato, un paio di bottiglie d'acqua, una bussola, una carta geografica, oltre a 1700 litri di benzina. Ma il suo carburante più potente è la fiducia che ha in se stesso. In the cold gray dawn, when the stars were gone, in the mighty aeroplane, flew a boy in search of fame. Far across the bounding main, like a bird on high, out to do or die on his journey over there. Many million hearts before him. Destini incrociati. A Destini Incrociati è di scena oggi la passione per il volo, che trasporta gli uomini sulle ali della gloria grazie a un'impresa che cambierà radicalmente la storia dell'aviazione. È il 1927. Il giovane pilota Charles Lindbergh tenta qualcosa che non è mai riuscito a nessuno fino a quel momento: la traversata dell'Oceano Atlantico da New York a Parigi in solitaria, senza scalo, su un aereo a motore. Il nostro protagonista ha accettato la sfida di Raymond Orteig, magnate del campo alberghiero, che con una illuminata azione promozionale nei confronti del proprio business mette in palio addirittura $25,000, una cifra astronomica in quegli anni, perché riesca a compiere l'impresa per primo. Un tentativo al limite della follia, come si ricorda in un servizio al telegiornale dedicato al pilota. Un giovane di 25 anni si infila dentro un piccolo aereo stretto nell'abitacolo. Non ha finestrini frontali, pronto a volare cieco e senza radio dall'America all'Europa. Fin dal 1919 ci sono in palio $25,000 per il primo che ci riuscirà, ma molti muoiono nel tentare l'impresa. Lindbergh parte quindi alle 7.52 del 20 maggio 1927. È il 90° pilota che tenta l'impresa. Non c'è vento e l'atmosfera è quasi surreale. Lo Spirit of St. Louis avanza lentamente tra una folla di curiosi sulla pista fangosa del Roosevelt Field di New York. Charles è calmo, sicuro di sé. Quando le ruote del carrello si staccano dal suolo, egli è ben conscio di quello che si appresta a compiere. L'abitacolo è freddo, davanti a sé ha la strumentazione di bordo. Può vedere l'orizzonte solo dai finestrini laterali e da uno specchio che riflette ciò che gli si para di fronte. Ma soprattutto, è solo. Un uomo solo, un motore solo, così decide Charles Lindbergh. Dopo 12 ore di volo avvolto in un fitto banco di nebbia, il ghiaccio che si forma sulla fusoliera e sulle ali dello Spirit of St. Louis rischia di compromettere l'intera trasvolata. L'aereo perde quota e Charles ha qualche attimo di esitazione, ma poi decide di proseguire. Niente e nessuno possono impedirgli di portare a termine ciò che ha iniziato. Sentite come commenta l'anziano pilota Bill King l'atteggiamento di Lindbergh in quei frangenti così pericolosi. I piloti sono gente particolare, sono caratteriali. Io credo che l'aviazione attiri la gente con un carattere speciale. Io mi reputo abbastanza normale, ma alcuni di quelli che volano sono eccitanti. Lindbergh naviga d'istinto, guarda la bussola e le stelle, ma non conosce la sua reale posizione. Dopo 20 ore dalla partenza, la visibilità improvvisamente migliora. Questo gli infonde un rinnovato coraggio. L'adrenalina lo tiene sveglio, non avverte minimamente i segni della stanchezza. Allo stesso modo, dalla parte opposta dell'Oceano Atlantico a New York, Raymond Orteig non ci pensa neanche a dormire. In qualche maniera è come se si trovasse nella cabina dello Spirit of St. Louis con il pilota che sta per regalargli l'ingresso nella storia. Sogno qualcosa di buono che mi illumini il mondo, buono come te, che ho bisogno di qualcosa di vero che illumini il cielo proprio come Oramai sono 27 ore che Lindbergh vola. Ha mangiato, ha bevuto, ha persino cantato e parlato con se stesso. Essere lì in quel momento è ciò che più di ogni altra cosa al mondo egli abbia mai desiderato. È tutta la sua vita. Ma anche lui è un essere umano. Lo stress, la fatica e la veglia forzata cominciano a farsi sentire. Accusa i primi colpi di sonno. Gli occhi gli si chiudono, le forze paiono abbandonarlo. Per alcuni istanti si sente perduto e teme di non farcela. Improvvisamente però qualcosa lo ridesta prepotentemente. Avvista le coste dell'Irlanda, comprende così che il più è passato. Dopo poco, infatti, i suoi occhi stanchi avvistano laggiù sotto di lui le luci di Le Bourget. Parigi lo attende e con essa la sua gloria. Charles A. Lindbergh, Lucky Lindy as they call him, landed at Le Bourget Airport, Paris at 5. Sono le 10:22 della sera del 21 maggio 1927, quando dopo 33 ore, 30 minuti e 29 secondi di volo e dopo 5.790 chilometri, lo Spirit of St. Louis atterra all'aeroporto Le Bourget di Parigi. L'impresa è compiuta. Charles Lindbergh è il primo aviatore della storia ad avere attraversato in solitaria l'Atlantico e anche il primo ad avere volato senza scali per così tanto tempo. Lindbergh, o per meglio dire Lucky Lindy, Lindy il fortunato, come viene immediatamente ribattezzato, è stanco, frastornato, non dorme da 55 ore. Il rombo del motore gli assorda ancora i timpani, ma soprattutto non si aspetta l'accoglienza che gli viene riservata al suo arrivo a Parigi. Un testimone dell'epoca racconta la scena davvero incredibile di quello storico momento. La folla urlava, cantava, piangeva. E quando finalmente l'aereo si avvicinò al pubblico, ci fu qualche istante di silenzio. Fu un momento surreale. Lindbergh uscì dalla carlinga con estrema lentezza. Sembrava sorpreso da tanto clamore. L'aereo appariva danneggiato e tutti volevano tenersene un pezzo per ricordo. Il presidente francese a quel punto gli si avvicinò e, nonostante fosse molto più basso del pilota, lo abbracciò forte. Charles fa fatica a realizzare fino in fondo cosa gli stia capitando. Quando avvista le luci dell'aeroporto di Parigi, una parte di sé comprende di avercela fatta. Ma la stanchezza, lo stress accumulato e anche un non immaginato dispiacere per la fine di quel volo incredibile attutiscono, per così dire, le sue capacità di reazione. Si risveglia completamente dal suo torpore solo alle parole e all'abbraccio del presidente francese Gaston Doumergue. Da quel momento, il postino volante, Lucky Lindy o Lone Eagle, come la gente ribattezza Charles Lindbergh, diviene un eroe. Al suo appuntamento con la storia egli arriva puntuale e non c'è giornale o rivista o media di alcun genere che non dedichi spazio a lui e alla sua incredibile impresa. Ai giornalisti che lo intervistano dopo avergli concesso un sonno ristoratore, Lindbergh parla in maniera entusiastica del suo aereo. The Spirit of St. Louis è una creatura vivente. Con lui ho condiviso esperienze, sentimenti, paure. Tra noi si è instaurata una forma di reciproca fedeltà. La trasvolata oceanica non è opera mia, ma nostra. Intanto, a New York, Raymond Orteig sta festeggiando. Nei suoi hotel la gente si accalca e i giornalisti fanno a gara a intervistarlo. È lui l'uomo che ha permesso attraverso la sua sfida il compiersi di un evento destinato a diventare leggenda. Orteig è felice. Non solo ha ottenuto quello che voleva, un grande interesse nei confronti della sua persona e dei suoi hotel, ma molto di più, l'ingresso nella storia. Non vede l'ora di poter abbracciare l'artefice di quel successo, quel giovane e sconosciuto pilota al quale lui ha dato tutta la sua fiducia, Charles Lindbergh. L'incontro tra l'asso del volo e il mecenate dell'aviazione avviene a New York il 16 giugno 1927. Lindbergh è tornato in patria da eroe, tutti lo cercano, tutti lo vogliono, ma il suo appuntamento più importante è quello con l'uomo che gli ha dato la possibilità di compiere tutto questo, Raymond Orteig. Siamo nel salone delle feste dell'Hotel Lafayette. La scena della consegna del premio Orteig, i fatidici $25,000 in palio, viene immortalata da una foto storica. Sulla sinistra, Charles Lindbergh, in un elegantissimo completo scuro, sorride dall'alto del suo 1,91 m al magnate francese. Sulla destra, Orteig, capelli bianchi, baffetti neri, guarda parecchio in su per sorridere al suo pilota. I loro sguardi si incrociano, così come è avvenuto per i loro destini. Un incontro che ha cambiato le loro vite, facendoli volare sulle ali della gloria. I wanna fly with you, baby. Let them know what I want, son. Leave the world behind. I wanna fly so high. Fly high. And leave the world behind. incrociati. Destini Incrociati vi racconta oggi la storia di un'impresa che ha cambiato il mondo, la traversata atlantica di Charles Lindbergh. Il temerario asso dell'aviazione incontra sul suo cammino un ricco uomo d'affari, Raymond Ortaig, che ha messo in palio ben $25,000 per il primo uomo che fosse riuscito a compiere l'arduo volo in solitaria. Lindbergh, partito da New York, atterra all'aeroporto Le Bourget di Parigi alle 10:22 della sera del 21 maggio 1927, dopo 33 ore e 30 minuti di volo ininterrotto in solitaria. Ad attenderlo una folla esultante e l'ingresso nella storia. Da quel momento la sua vita cambia per sempre. Dopo aver ritirato il premio di $25,000, una vera fortuna, che gli viene consegnato dalle mani dello stesso Raymond Ortaig, Lindbergh è protagonista di un evento unico, una leggendaria parata lungo le strade di New York. 4 milioni di persone lo festeggiano con 1.800 tonnellate di coriandoli. Returning to the States, Lindbergh received a hero's welcome. Al ritorno negli Stati Uniti, Lindbergh ricevette un'accoglienza da eroe e la medaglia al valore dal governatore di New York, Al Smith. Il viaggio di Charles Lindbergh lo trasportò negli annali della storia dell'aviazione. Lucky Lindy siede sulla macchina ufficiale messa a disposizione dell'esercito degli Stati Uniti d'America. È alto e la sua figura svetta sopra le altre teste. Mentre milioni di coriandoli gli volano intorno, sente di avere raggiunto quel successo che ha tanto cercato e con determinazione ottenuto. È un eroe, osannato dalle folle e ammirato dal mondo intero. Il presidente degli Stati Uniti d'America, Calvin Coolidge, gli conferisce la Distinguished Flying Cross. Of the United States, I bestow the Distinguished Flying Cross as a symbol of appreciation for what he is and what he has done upon Colonel Charles A. Lindbergh. Ma non è solo il successo di un uomo a rendere grande l'impresa di Lindbergh. Con il suo volo, egli attesta l'affidabilità degli aeroplani, trasformandoli in un valido mezzo di trasporto alternativo ai mezzi tradizionali. La sua impresa rappresenta un autentico spartiacque, trasformando totalmente l'aviazione negli Stati Uniti e in seguito nel mondo. Per l'industria aeronautica si apre un grande business. Pochi giorni dopo l'impresa del giovane pilota, viene fondata la Transcontinental Air Transport, la futura TWA. Lindbergh è seduto nel salotto di casa sua quando riceve una telefonata molto importante. È stato nominato colonnello della nascente industria aeronautica. Ormai è ricchissimo, famoso e ora ha anche un ruolo dirigenziale di grande prestigio. La sua vita non potrebbe essere più bella. Di lui si può veramente dire che sia al settimo cielo. Quanti amori conquistano il cielo, perle d'oro nell'immensità. Qualcuna cadrà, qualcuna invece il tempo vincerà, finché avrà abbastanza stelle il cielo. Ma qualcosa cambia anche nella sua vita privata. L'aquila solitaria non è più sola. Sposa Anne Morrow, una ricca ereditiera conosciuta durante un viaggio, e nel 1930 nasce Charles Lindbergh Jr., il suo primogenito. Mentre stringe tra le braccia il figlioletto appena nato, Charles si rende conto che questo è il coronamento di un sogno, paragonabile a quello della sua storica impresa. Lui che ha avuto due genitori severi, un'educazione rigida e poco incline alle effusioni sentimentali, riversa sul figlio tutto il suo affetto e la sua tenerezza. Ma questo evento gioioso è destinato a trasformarsi in una tragedia. Il primo marzo del 1932, qualcuno entra segretamente nella casa dei Lindbergh da una finestra al secondo piano. Il piccolo Charles Jr. viene rapito mentre sta dormendo. I giornali lo definiscono il rapimento del secolo. Baby Lindbergh, come viene ribattezzato dai media, scompare da casa. Nella sua stanza una richiesta di riscatto di $50,000. Charles piomba nel baratro. La sua vita così perfetta, le sue gesta eroiche, i riconoscimenti mondiali, tutto gli appare ora inutile. È disperato. Nonostante venga pagato il riscatto, il piccolo viene ritrovato 2 mesi dopo senza vita. Per i Lindbergh è la fine. Del terribile crimine viene accusato il falegname Bruno Hauptmann, condannato a morte e giustiziato, benché si dichiari innocente. A death watch outside Trenton State Prison awaits the execution of Bruno Richard Hauptmann. He has been convicted of kidnapping and murdering this child, the firstborn son of Charles Lindbergh. Charles Lindbergh è un uomo distrutto. Si aggira per la casa, entra nella nursery dove tutto gli parla del suo piccolo figlioletto. La moglie Anne pare aver perso la ragione. Non possono rimanere lì. Lindbergh prende una decisione drastica. Lascerà gli Stati Uniti. La vicenda del rapimento di Baby Lindbergh sconvolge l'opinione pubblica e ispira numerosi romanzi, il più famoso dei quali è sicuramente Assassinio sull'Orient Express, scritto nel 1934 da Agatha Christie, da cui nel 1974 viene tratto l'omonimo film di Sidney Lumet. Questa notte uno dei nostri passeggeri è stato... L'hanno ucciso. È stato assassinato. L'assassino si trova ancora in mezzo a noi. Da quale scompartimento proveniva? Non lo so. Deve darmi una risposta valida. Era debole, era vigoroso. Pugnalato mentre dormiva. Fra il 1936 e il 1939, Charles Lindbergh viaggia moltissimo. Su invito dell'esercito americano, si reca in Germania per raccogliere informazioni sugli sviluppi dell'aviazione nazista e conosce Hitler. A un amico che gli chiede un parere sul dittatore, Lindbergh risponde inaspettatamente con un parere positivo. È sicuramente un grand'uomo e credo che abbia fatto molto per il popolo tedesco. Allo scoppio in Europa della Seconda Guerra Mondiale, Charles prende una posizione netta. Sa perfettamente cosa significhi una guerra, quanto orrore e disperazione porti con sé, e fa di tutto per influenzare il suo paese affinché non vi partecipi. Tonight I speak again to the people of this country. Questa sera parlo alle persone di questo paese che si oppongono all'entrata in guerra degli Stati Uniti d'America. Noi auspichiamo una posizione di neutralità. Il futuro della nostra nazione e della nostra civiltà poggia sulla saggezza e sulla lungimiranza che siamo in grado di usare. Il non interventismo di Lindbergh non è però ovviamente sufficiente, oltre ad essere giudicato anti-americano. È il 7 dicembre del 1941. Charles sta ascoltando la radio, dalla quale apprende una notizia terribile. The goal was the destruction of the American Pacific Fleet lying at Pearl Harbor in the Hawaiian Islands. Le forze aeronavali giapponesi colpiscono la base statunitense di Pearl Harbor nelle Hawaii. Gli Stati Uniti sono in guerra. Charles sa bene qual è il suo dovere, mettere le sue conoscenze e la sua abilità al servizio del paese. Anche se in un primo tempo l'aeronautica rifiuta la sua collaborazione a causa della sua dichiarata posizione non interventista, poi ne accetta il prezioso aiuto. Lindbergh si dedica quindi all'addestramento dei giovani piloti. Al termine della guerra un pensiero costante assilla Lindbergh. La sua impresa, la traversata atlantica, non deve essere dimenticata. Raymond Ortega è morto nel 1939 e Charles sente di dovere anche a quell'uomo che ha significato tanto per lui un ricordo che sia a perpetua memoria delle loro azioni. È seduto alla sua scrivania e ha una felice intuizione. Scriverà il racconto del suo volo. The Spirit of St. Louis vede la luce nel 1953 e l'anno dopo vince il prestigioso premio Pulitzer. Il famoso pilota e scrittore statunitense Ernest Gunn sul Saturday Review commenta così il racconto del grande Lucky Lindy. Lindbergh ha dimostrato di essere un grand'uomo e ci ha lasciati con la tangibile impressione che sarebbe stato un grande uomo anche se non avesse mai attraversato l'oceano. L'uomo sogna di volare, guardare dall'alto, planare sul mare, che si trovi su un aereo o in un grande appartamento, sui gradini di una chiesa, nella favela di Kanja. L'uomo sogna di volare. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Altri destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.